Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Subito la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il nostro sito radio24.it, dal quale potrete scaricare anche via podcast e abbonarvi tutte le puntate di tutte le trasmissioni, soprattutto quelle come la mia che vanno in onda di mattino presto, che vanno in onda la sera tardi. Quindi visitate il sito e il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sotto il mio profilo o sull'home page del Sole 24 Ore. Ieri abbiamo cominciato a parlare di abusivismo nella professione fisioterapica, quindi coloro i quali fisioterapisti non sono e nelle strutture private o privatamente a domicilio, e abbiamo sentito anche dalla voce della presidente dell'Associazione Nazionale Vittime dell'Abusivismo in Riabilitazione, Flora Virgillitto, ahimè anche nelle strutture pubbliche. Abbiamo ascoltato il caso di un fisioterapista che tale non era, che operava in un ospedale di Torino. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlarne, oggi continuiamo come? Sentendo alcuni casi, quindi persone che sono state vittime di questo, ma prima di avventurarci nelle due testimonianze che abbiamo raccolto, parliamo con Roberto Ferrara, che è il responsabile dell'ufficio giuridico per la Sicilia dell'Associazione Italiana Fisioterapisti. Buongiorno Ferrara. Buongiorno. Allora, ieri Simone Patuzzo, che è il vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano dei Fisioterapisti, diceva attenzione a quelle che poi sono le strutture private, attenzione a quelle che poi sono convenzionate con le regioni, insomma attenzione a tutto ciò che ruota intorno a questo mondo convenzionale, diciamo così, nel senso di convenzioni stipulate con le regioni. Allora, in Sicilia qual è la situazione e quali antenne sul territorio voi alzate per denunciare i casi di abusivismo nella vostra professione? Sì, e allora qui in Sicilia, per quanto riguarda i liberi professionisti, il fenomeno è meno rilevante rispetto alle regioni del nord. Questo però perché in Sicilia le strutture convenzionate hanno un'incidenza maggiore di abusivismo professionale, perché la riabilitazione in Sicilia è gestita per il 90% da strutture private in convenzione, sì, dove, come diceva il collega Patuzzo, molte volte non manca il controllo sulla specificità dei titoli abilitanti del personale che eroga tali prestazioni, e noi abbiamo, come AIFI, fatto sorgere un comitato spontaneo per presentare una modifica a un decreto regionale sull'accreditamento diretto ai fisioterapisti. Ecco, l'AIFI, diciamo, è l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti. Sì, rappresentante della professione, con un riconoscimento del Ministero della Salute. Benissimo. Allora, quindi io probabilmente le farò una domanda che la farà rabbrividire, però proviamo, sì, a vedere se è possibile quantificare. Ma fatto 100 alla torta dei fisioterapisti oggi che operano nella sua città, quale può essere la percentuale di persone che in realtà operano senza titolo? Nella mia città, che è Caltanissetta, è un centro di circa 65.000 abitanti, credo che gli abusivi si aggirino intorno a 5-6 persone. E le dico che settimana scorsa, sentendo una pubblicità in una radio, in una TV locale, conoscendo il soggetto che era un laureato in scienze motorie, che pubblicizzava il suo studio dicendo che venivano eseguiti trattamenti kinesiterapici, io sono andato alla Guardia di Finanza in qualità di responsabile, ho denunciato il fatto. Benissimo, benissimo. Questo e questo volevo dire un'altra, prego, cosa, che il fenomeno dell'abusivismo talvolta viene anche sollecitato da istituzioni pubbliche, e ho avuto tra le mani proprio ieri una proposta della Società di Cardiologia Riabilitativa della Regione Sicilia sulle linee guida ambulatoriali per la riabilitazione cardiologica. Ecco, però qui ci spongiamo, ecco, però sintetici, noi ci spongiamo troppo oltre nella discussione. Dove? Dove praticamente la società scientifica avanza la proposta che sia necessario la presenza del fisiatra all'interno degli ambulatori di riabilitazione cardiologica, e il fisioterapista e o il laureato in scienze motorie, che non è una professione sanitaria, sappiamo bene. Certo. Se già le istituzioni o le società scientifiche dei medici propongono, cioè inducono alla... Certo, è chiarissimo, inducono alla confusione, vuol dire proprio che non ci siamo. Ahimè, le leggi spesso servono proprio per questo, per fare confusione. Allora, io fermo per un momento Roberto Ferrara e lo ringrazio per la sua chiarezza e veniamo ai nostri casi. Allora, la prima è quella di Maria Luisa Margoni di Trento. Buongiorno, dottoressa Margoni. Buongiorno. Allora, che cosa le è successo? Racconti la sua avventura. Niente, la mia avventura si riduce in poche parole a questo. Io ho sempre sofferto di mal di schiena. Purtroppo sono allergica a tutti gli antinfiammatori e cose di questo genere. Ho scoperto che c'era questo pranoterapeuta che avrebbe potuto aiutarmi a sollevarmi questo dolore. Mi sono presentata da lui, che aveva uno studio privato, e ho spiegato la mia situazione e lui in pochissimo tempo mi ha fatto sdraiare per terra e poi ha incominciato a camminarmi sulla schiena. Io ho sentito un fortissimo dolore, mi sono alzata e nel giro di poche ore ho scoperto tramite una lastra che mi aveva rotto due costole. Ecco, fantastico, quindi un vero e proprio truffatore. Mi scusi una domanda, ma lei poi ha denunciato questa persona? Io ho denunciato questo signore, l'ho portato in tribunale, sono riuscita a vincere la causa. Lui gli hanno chiuso lo studio, ha pagato me, ha pagato tutte le spese processuali e non si è più visto in circolazione. Ecco, probabilmente magari sarà a fare danni da qualche altra parte. Io per esempio ho notizie in alcuni paesi del sud, questo qui lo dico perché purtroppo in alcuni ambienti è anche più facile insinuarsi, di medici che non hanno alcuna laurea, non sono specializzati in nulla, che raccolgono le loro vittime, truffano, dopodiché spariscono e si presentano in altri paesi. Insomma, facciamo attenzione, per piacere. Certo. Allora, grazie Margoni. Adesso passiamo la parola ad Enzo Martuscello di Macerata. Buongiorno Martuscello. Buongiorno a tutti voi. Allora, la sua esperienza è simile o peggiore, migliore? Ci racconti un po' lei. Vabbè, io sono affetto da spondilite anchilosante. Ma io sono ignorante, che cos'è una spondilite anchilosante? È una malattia degenerativa del sistema scheletrico. E praticamente non c'è nulla da fare se non fisioterapia oppure ginnastica, diciamo, per non farla peggiorare, per fermarla, però farmaci che possono fermarla non esistono ancora. Ho capito. E praticamente mi dicono di questo pediatra di Riccione, che era bravissimo, faceva dei massaggi particolari, del massoterapia, insomma. Vabbè, andiamo a conoscere questo benedetto pediatra, vado lì, trovo decine e decine di persone. E questo mi comincia a fare questa massoterapia. Io gli chiedevo: ma scusi dottore, ma quanto mi costa ogni massaggio che lei mi fa? Dice: no, ma lei non si preoccupi, lei starà benissimo. Inizialmente faceva solo questi massaggi, poi ha cominciato a fare delle infiltrazioni sul collo con delle siringhe molto piccole, che poi le spiego cos'erano. E chiaramente mi faceva questi massaggi e queste iniezioni alla base del collo. Scopro che queste iniezioni che lui mi faceva, parlando con un amico medico, diceva: guarda, queste sono iniezioni che fanno normalmente persone che hanno brutti mali, dice, si fanno queste micro punture e praticamente il dolore tu non lo senti più per ore. Insomma, un vero e proprio malfattore anche costui, verosimilmente. Lei lo ha denunciato, è stato condannato? Sì, no, è stato condannato io. Ah, è stato condannato lei, fantastico, e come mai? Allora, per dire, io stavo bene perché lui faceva queste infiltrazioni che normalmente si fanno chi è affetto da tumori, cose del genere, no? E lui faceva questi massaggi e io chiedevo sempre: ma dottore, ma quanto mi costa tutto ciò? Ma lei non si preoccupa, lei sta bene. Stavo bene perché lui finiva di fare il massaggio, mi faceva sta siringa, chiaramente mi topava e stavo bene. Ma lei perché è stato condannato, Martuscello? È qui il bello. Questo un bel giorno io mi stufo, allora chiamo questo professore, sto dottore, si faceva chiamare per professore, dico: senti, ma dimmi quanto devo dare, io non vengo più. Cioè, ti mando la parcella. E mi manda una parcella di 5 milioni di vecchie lire. Dico: ma scusami, io ho fatto 12 sedute. Mi pare un po' troppo. 5 milioni, dico, manco se me lo facevi un'operazione al cervello, una cosa. Certo. Questo dice: no, guarda, questa, insomma, praticamente dico: no, io mi rifiuto di darti questi 5 milioni. E quindi l'ha portata in tribunale e lei ha perso la causa. oltre a pagare i soldi, ho pagato pure il suo avvocato. Incredibile. Purtroppo questo qui è il nostro paese nel bene e nel male. Mi raccomando, abbiamo parlato in queste due puntate di fisioterapia, ripeto, due siti, spiff.it e abusivismoiriabilitazione.it. Grazie ai nostri ospiti, grazie regia Fabio Cantadori, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.